Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Due giorni fa con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre parlavamo di bollette, dei sistemi di pagamento, della loro chiarezza, degli aumenti o delle diminuzioni dei prezzi. Parliamo di altri tipi di pagamento ora, le parcelle dei professionisti. Sono anche quasi proverbiali il fatto che le parcelle siano notoriamente alte, o almeno così si dice. Ben trovato al presidente dell'Adico Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, si può dire quello che dice il proverbio popolare, insomma, che le parcelle sono sempre onerose o magari gonfiate? Cosa sta succedendo? Cosa vi dicono i vostri soci, chi si rivolge allo sportello? Sì, sta capitando sempre più frequentemente che le azioni di intervento che l'Adico sta svolgendo in quest'ultimo periodo è nei confronti di liberi professionisti che hanno emesso, ad avviso dei nostri soci, parcelle gonfiate rispetto a quelli che erano dei preventivi. E qua, quando parliamo di liberi professionisti, parliamo appunto di qualsiasi genere di persona e di professionista che opera in qualsiasi ambito, ma soprattutto parliamo anche di importi di 20-30 mila euro, di cui persone che non sono o non riescono a pagare si trovano anche vittime di ingiunzioni di pagamento da parte di costoro, proprio per il fatto che non sanno cosa fare e neanche come poter sostenere. 20-30 mila euro, insomma, è una super parcella, non è credo un prezzo normale. Poi è chiaro che poi dipende dalla prestazione professionale che è stata richiesta ed eseguita. Ma com'è possibile che una parcella si gonfi dall'inizio, da quando uno si rivolge al professionista, quando poi va a pagare? Beh, parliamo di avvocati, che magari ci può risultare più semplice, ma parliamo di architetti, parliamo o se no anche di dentisti. Allora, innanzitutto capita a molte persone che si trova il saldo di parcelle che non avevano la minima idea di quanto dover pagare, e parliamo appunto di importi che addirittura escono fuori da ogni logica, soprattutto in virtù di quello che può essere a nostro avviso una prestazione erogata nei confronti di una persona che a volte arriva a prendere anche 1.200-1.300 euro al mese. Allora io dico, il problema che noi come Adico abbiamo evidenziato è questo: e innanzitutto manca sempre da parte del consumatore la pretesa di avere un preventivo scritto. Bisogna cominciare a smetterla di rivolgersi a liberi professionisti, che possono essere anche carrozzieri, che possono essere chiunque, e non avere un preventivo scritto. Una volta che si è preventivo scritto, con quello si può più facilmente contestare quello che può essere l'importo di una fattura rispetto a quella che è stata una prestazione reale svolta. È anche vero che in questo momento di crisi anche questi settori, certamente a nostro avviso, tendono troppo spesso ad attanagliarsi nei confronti di un cliente, soprattutto quando c'è poca chiarezza, a nostro avviso, su quelle che sono anche state delle precedenti forme di pagamento. Allora io dico, ci sono gli albi che normalmente tendono anche a vigilare sull'operato di questi liberi professionisti, pensiamo all'ordine degli avvocati, all'albo degli architetti, all'albo degli ingegneri, e pensiamo anche comunque ad avere il coraggio a voler denunciare quello che può essere un comportamento scorretto, se questo a loro avviso escono da quelli che sono dei codici deontologici che questi professionisti sono chiamati a dover operare. Però non pensiamo neanche di non pagare quando si è sprovveduti, perché purtroppo di fronte al giudice si risulta sempre dalla parte di colui che non vuole pagare la prestazione svolta da un libero professionista, e questa non è certamente una posizione forte. Quindi non basta più la stretta di mano, ma formalizzando quello che è un contratto quando si chiede appunto una prestazione professionale, sempre meglio, per evitare brutte sorprese, che le cose siano scritte? Assolutamente, nessuna stretta di mano, bisogna avere il coraggio di avere un preventivo scritto. Sappiamo che le nuove norme che inizialmente obbligavano a dover lasciare un preventivo scritto, pensiamo per esempio all'ordine degli avvocati, sono state modificate, però a fronte di una richiesta bisogna loro sono obbligati a farlo. Non si può pensare di andare davanti a un giudice o realizzare una casa o sistemare un'auto in carrozzeria e dover spendere anche decine di migliaia di euro e regolarizzare quello che è un rapporto con una stretta di mano. Oggi tutti, come libero professionista, anche il socio, devono tutelarsi, e l'unica cosa che permette alle persone a volersi e a potersi tutelare è la prova scritta, e la prova scritta è giusto pretenderla a lato dell'accordo con cui le parti normalmente convengono a un accordo. Leggendo nelle pieghe di questa notizia c'è una cosa che non sapevo, cioè che il pagamento delle parcelle, delle prestazioni professionali può avvenire anche 3 anni dopo che la prestazione è stata compiuta. Sì, si può tornare indietro di 3 anni, per cui anche qui fare molta attenzione e verificare poi sulla fattura che non ci sia la dicitura, che ci sia o l'acconto e il saldo, perché continuare a pagare acconti vuol dire avere una posizione che è sempre aperta, quindi dare meno anticipazioni possibile e pretendere l'acconto e il saldo. Se c'è il pagamento in contante, fare una firma sull'originale da parte del libero professionista, cioè pretenderla, e soprattutto limitare il più possibile l'uso del contante, ma cercare di ricorrere ai bonifici o agli assegni, perché poi anche qui la tracciabilità diventa uno strumento molto importante per eventuali contestazioni che dovessimo insorgere, perché noi come Adico veramente ne stiamo sostenendo tantissime di posizioni nei confronti di queste categorie. Insomma, uno magari per cercare di risparmiare qualcosa poi rischia alla fine di pagare salatissimo il conto per non aver chiesto il preventivo, non solo non averlo chiesto ma aver preteso, ripetiamo, che sia in forma scritta, e questo è una doppia reciproca tutela. Grazie al Presidente dell'Adico Carlo Garofolini, ci ritroviamo la settimana prossima con altri 2 argomenti. Buon proseguimento. Grazie a te amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.